Con Francesca Sattaflores per parlare dello spettacolo Vaillant, quando lassù, che sarà al Teatro Palladium il 16 e 17 febbraio. Francesca, benvenuta. Eccoci qua, grazie, ben trovato. Allora, intanto lo raccontiamo. Ci dici qualcosa? Come no, guarda, l'idea di base parte, consideriamo che il progetto nasce come un radiodramma. Sì. L'idea di base, che è dell'autrice Giovanna Caico, nasce appunto dall'invenzione di una radio privata già nel 1963, cosa che sappiamo storicamente non essere attendibile, ma appunto un'invenzione teatrale, una radio privata di Belluno che all'alba del 10 ottobre, quindi all'indomani della tragedia del Vajont che è accaduta il 9 ottobre 63, comincia a cogliere qualche segnale dai radioascoltatori, dalle notizie che cominciano a diffondersi e cerca di far luce su quanto è avvenuto, che all'epoca non si è saputo che mano a mano. Dunque, praticamente c'è una specie di cronaca attraverso appunto le testimonianze delle persone del luogo che ci guida alla scoperta momento per momento di questo disastro, che è stato il primo disastro, diciamo, causato poi dall'intervento dell'uomo di rilevanza mondiale, che è accaduto sul nostro territorio. Quindi Sì. questo è il fil rouge, diciamo, della trama. Però in contrappunto abbiamo, diciamo, quello che poi rende originale questo progetto, e cioè abbiamo tutto l'universo delle memorie di quello che è stato eliminato in quei pochi secondi, diciamo, del dramma. Tutto l'universo delle memorie, quindi di un'intera civiltà valligiana del luogo, che è stato spazzato via, ma che rimane nella forza della continuità, quindi tutte le tradizioni, la vita, le persone nei ricordi. E dunque tutto questo vissuto è interpretato, diciamo, da delle voci, da delle presenze che portano avanti quella che poi sarà la forza del luogo, che negli anni si è ripreso, anche se porto con tutta una serie di problemi, eccetera, che fanno parte più del registro di denuncia, che appartiene fino a un certo punto al nostro spettacolo. Sì. Il nostro spettacolo si prende in carico più l'aspetto della resilienza umana a partire dalla memoria, non trascurando però proprio il dato storico. Quindi ci sono questi due registri, uno molto narrativo che ci guida alla scoperta dell'accaduto, e l'altro più emotivo che ci parla di queste memorie e cerca appunto di far leva poi sulla forza della memoria come serbatoio, come potenziale di risalita, di ripresa nella vita di ognuno. Oh, Francesca, è anche l'esito di un laboratorio. Assolutamente sì. Quello che noi mettiamo in scena stasera e domani al Teatro Palladium in realtà è l'esito di una serie di tappe. Perché abbiamo cominciato con una mise en espace con degli allievi della mia scuola di teatro, che è l'IL Flottant. E l'anno successivo, cioè l'anno scorso, siamo andati a Longarone, ospiti della Fondazione Vaillant, e abbiamo fatto un primo laboratorio con gli studenti di un convitto proprio di Longarone. E siamo andati in scena lì, quindi la cosa si è arricchita molto, perché per noi ovviamente è stato un viaggio pazzesco, cioè ci siamo resi veramente conto di cui stavamo parlando. E quest'anno, appunto, in collaborazione, grazie alla Fondazione Teatro 3, mamma mia, Roma 3, la Fondazione Roma 3, naturalmente, dell'Università di Roma 3, portiamo lo spettacolo al Teatro Palladium con un laboratorio, ha preceduto lo spettacolo un laboratorio, in cui appunto sono stati protagonisti ragazzi, studenti dei vari atenei romani, dei tre atenei romani. Quindi in scena, oltre agli attori professionisti, abbiamo questi ragazzi, alcuni addirittura la prima esperienza, infatti sono un po' preoccupata, che appunto hanno abbracciato questa tematica e l'avventura, quindi, di prodursi in scena in questo viaggio. Senti, com'è stata l'idea, partendo dalla base di tutta questa memoria raccolta, la messa in scena? Allora, è stato diciamo, un percorso che io spero molto funzioni, spero venite a vederlo così poi mi dite se funziona, perché nasce un po' da un mio immaginario poetico, cioè che è quello della dell'esistenza contemporanea di vari piani, niente di originale ovviamente, l'esistenza contemporanea di vari piani in quella che definiamo realtà. E più che mai questo mi sembrava un ambito adeguato ad ospitare questo tipo di immaginario. Quindi la memoria per me è stata una componente della scoperta stessa, cioè mentre si dipana la scoperta di quello che è accaduto, la memoria è nello stesso tempo un contraltare sempre presente e quindi diciamo di volta in volta un controcanto o una voce principale, però non c'è una netta divisione, è un qualcosa che cerca di sottolineare la compresenza anche dell'aspetto drammatico e dell'aspetto più amoroso, diciamo, come polo positivo e negativo, se proprio vogliamo dire una cosa, insomma, piuttosto evidente, nella quotidianità. Non so se ho risposto proprio, alla domanda. Sì, senti Francesca, si tratta di una delle tappe, ce ne saranno altre? Speriamo veramente di sì. Speriamo tantissimo, siamo in collaborazione appunto anche con la Fondazione Vajont e quindi noi amiamo molto ritornare ancora sul territorio e anche magari andare altrove perché ho visto l'impatto con una tragedia quasi dimenticata, da una parte quasi dimenticata se non sul territorio, dall'altra parte ancora in realtà quando ci si lavora ha un eco, una forza evocativa grandissima che è più che mai utile e adatta per concretizzare quello che è il tema ambientale di oggi, che tante volte c'è una consapevolezza mille volte maggiore rispetto agli anni 60, ma tante volte rimane del tutto non tradotto. Quindi assolutamente noi vorremmo riproporre la cosa anche in forma laboratoriale, che è una formula che ha avuto molto successo, nelle diverse comunità locali. Quindi noi speriamo proprio che questo sia che sia un nuovo inizio, diciamo. Ok, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Naturalmente, allora, trovate tutto sul sito del Palladium, del Teatro Palladium, l'indirizzo preciso, naturalmente ora io sono impreparata su questo argomento, ma Teatro Palladium Roma trovate tutto. Piazza Bartolomeo Romano. Proprio così. E esistono anche vostri siti internet, pagine Esattamente, Facebook? infatti sull'altro sono preparata perché il sito Ok. della nostra associazione produzione teatrale invece per fortuna lo conosco ed è tutto attaccato, Ile Flottante, cioè www.ileflottante.org. Perfetto. Lì troviamo tutte le informazioni. Allora, un ringraziamento e un saluto a Francesca Sattaflores. Ricordiamo l'appuntamento con Vaillant quando lassù 16 e 17 febbraio al Teatro Palladium a Roma. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille, a presto, grazie Federico.